Libri quinto e sesto. Parlerò al cospetto del mio Dio di quel 29° anno di mia vita. Da qualche tempo ero arrivato a Cartagine e lì un vescovo manicheo di nome Fausto, gran laccio del demonio, e molti vi restavano impigliati a causa della suavità del suo eloquio. Io, è vero, la lodavo, ma sapevo distinguerla dalla verità delle cose che ero avido di imparare, e guardavo più che al recipiente di parole, al contenuto di scienza che mi bandiva quel Fausto, così famoso presso i suoi. La fama me lo aveva infatti già presentato come espertissimo in tutti i rami del sapere e particolarmente ferrato nelle arti liberali. E poiché avevo letto molti scritti di filosofi e li avevo imparati a memoria, ne traevo elementi di confronto con quelle interminabili storielle dei manichei, e mi sembravano più probabili le teorie di coloro che si erano mostrati capaci di penetrare la natura delle cose, anche se non erano affatto riusciti a scoprire il vero, Signore, poiché tu sei grande, Signore, e volgi lo sguardo a chi sta in basso, mentre chi sta troppo in alto ti limiti a osservarlo da lontano e non ti avvicini se non a chi è contrito nel cuore. E per i superbi rimani introvabile, quand'anche col loro acume indagatore arrivino a contare le stelle e i granelli di sabbia e a misurare le plaghe celesti e a esplorare le vie degli astri. Ecco la loro mente che intraprendono tali ricerche, e col talento che tu hai dato loro, e hanno fatto molte scoperte e preannunziato con anticipo di molti anni l'eclissi di sole e di luna, in che giorno si sarebbero verificate, a che ora, se sarebbero state parziali o totali. I loro calcoli non li hanno ingannati e le loro previsioni si sono avverate, e hanno messo per iscritto le leggi scoperte. E ancora oggi le leggiamo, in base a esse si sa in anticipo in che anno e in che mese di quell'anno, in che giorno di quel mese e a quale ora di quel giorno ci sarà un'eclissi di luna o di sole, e se sarà parziale o totale. E tutto andrà secondo le previsioni. La gente rimane a bocca aperta, i profani stupiscono, i dotti esultano e insuperbiscono. E per quest'empia superbia, allontanandosi ed eclissandosi dalla tua luce, con tanto anticipo prevedono la futura eclissi di sole e non vedono la propria già in atto. E non indagano infatti devotamente donde venga l'intelligenza con cui indagano, e anche se arrivano a capire che sei tu che li hai fatti, non si danno a te per consentirti di conservare ciò che hai fatto, ma come se si fossero fatti da soli, non si sacrificano a te, né a te immolano i loro entusiasmi, come uccelli o come pesci del mare. Le curiosità con le quali, attraverso i segreti sentieri dell'abisso, o come bestie del campo, le loro libidini, affinché tu, Dio, fiamma divoratrice, incenerisca le loro morti passioni, ricreandoli per l'immortalità. Ma non conoscevo la via, la tua parola con la quale hai fatto ciò che essi calcolano, e loro stessi che calcolano, e il senso con il quale vedono ciò che calcolano, e l'intelligenza con cui calcolano. La tua sapienza è incalcolabile. Infatti, proprio Lui, l'Unigenito, si è fatto per noi sapienza e giustizia e santificazione, ed è stato annoverato tra noi e ha pagato il tributo a Cesare. Non conoscono la via per discendere da sé a Lui e per suo mezzo a Lui risalire. Non la conoscono. E si credono eccelsi come le stelle, e altrettanto luminosi, ed ecco che precipitano in terra e si è oscurato il loro cuore insapiente. Dicono molte cose vere sul creato, ma non indagano devotamente sulla verità artefice del creato e perciò non la trovano, o se la trovano, pur conoscendo Dio, non lo onorano come Dio, né gli rendono grazie, ma si dissolvono nelle loro elucubrazioni e si proclamano sapienti attribuendo a sé ciò che è tuo. E così arrivano con pervertissima cecità persino ad attribuire a te ciò che è loro, addossando menzogne a te che sei la verità e trasformando la gloria del Dio incorrotto nell'immagine del corruttibile uomo e degli uccelli e dei quadrupedi e dei serpenti. E così ribaltano la verità in menzogna e adorano e servono la creatura anziché il creatore. Erano tuttavia molte le proposizioni giuste ricavate dall'osservazione del creato che imparai da costoro. Ne trovano conferma razionale nei calcoli e nell'ordinato susseguirsi delle stagioni e nella visibile testimonianza delle stelle. Le confrontavo con le asserzioni di Mani, che su ciò ha scritto con dovizia farneticante, senza che mi riuscisse di trovare una qualunque spiegazione dei solstizi e degli equinozi, né dell'eclissi degli astri, né alcunché di questo genere che avevo imparato nei libri di scienza profana. Mi si ordinava di credere, ma ciò non tornava affatto con le spiegazioni fornite dai numeri e dai nostri occhi, anzi, era di gran lunga diverso. E per quei 9 anni, all'incirca, in cui il mio intelletto, vagabondando, restò alla loro scuola, attesi, l'arrivo di quel Fausto, con esagerata impazienza. Gli altri della sua setta, infatti, quando mi capitava di incontrarne, posti di fronte alle mie obiezioni sull'argomento, si tiravano indietro e mi facevano il suo nome. Arrivato lui, al primo colloquio, mi avrebbe risolto con la massima facilità queste e altre ancor più complicate questioni che mi fosse piaciuto proporgli. Così, quando arrivò, lo trovai uomo gradevole, ottimo parlatore, che cinguettava le stesse cose che dicevano gli altri in modo ben più fascinoso. Ma cosa poteva fare alla mia sete quell'elegantissimo mescitore di coppe raffinate? Le mie orecchie erano ormai sazie di quei discorsi, né mi sembravano migliori perché detti meglio, né veri perché più eloquenti, e nemmeno sapiente il suo spirito perché il suo volto, sì, era espressivo, il suo parlare, sì, elegante. Quelli che me l'avevano vantato non erano certo buoni giudici. A loro sembrava avveduto e saggio perché si divertivano ad ascoltarlo. Ho conosciuto anche altri generi di persone disposte persino a diffidare della verità e a non prestarle vede se viene esibita con lingua adorna e rigogliosa. Quanto a me, tu, mio Dio, per vie nascoste e meravigliose già m'avevi ammaestrato. Credo che così fosse, perché l'insegnamento era vero. N'ebbe altro maestro di verità all'infuori di te, dovunque, da qualunque parte essa rifulga. Da te dunque già avevo imparato che non bisognava credere che una certa cosa fosse vera solo perché detta con eloquenza, né falsa perché i suoni delle labbra non riuscivano armoniosi, né viceversa che una cosa fosse vera perché detta senza stile, o che fosse falsa perché lo stile era brillante, ma che sapienza e stoltezza erano come i cibi utili e inutili, e potevano essere servite con parole adorne o disadorne, così come i due tipi di cibo, in vasellame cittadino e rustico. Così l'ansia con cui per tanto tempo avevo atteso quell'uomo fu certo appagata dalla vivacità e passione con cui declamava, dalla perfetta scelta delle parole, dalla facilità con cui gli venivano a rivestire i pensieri. Anzi, mi divertivo e come più degli altri lo lodavo ed esaltavo. Ma mi indispettiva in quella calca di uditore, di non potergli sottoporre e comunicare le questioni che più stavano a cuore a me, in una di quelle discussioni familiari in cui un po' si ascolta e un po' si risponde. Quando se ne presentò l'occasione, riuscì con i miei amici a catturare la sua attenzione in un momento adatto ad un confronto serrato e gli esposi certi dubbi che mi tormentavano, ad un tratto mi resi conto che quello ignorava completamente le scienze liberali, a eccezione della grammatica che pure conosceva in modo molto superficiale. Aveva letto qualche orazione di Cicerone, pochissimi libri di Seneca, qualche volume di poesia e quei pochi della sua setta che fossero scritti in buon latino e aveva modo di esercitare quotidianamente la parola. Ecco da cosa traeva alimento la sua eloquenza, resa vieppiù gradevole e seducente dal buon uso dell'ingegno e da una spontanea arguzia. E così, come ricordo, Signore Dio mio, arbitro della mia coscienza, è così, e il mio cuore e il mio ricordo sono davanti a te, che allora mi guidavi per i nascosti sentieri della tua provvidenza e che mi rigiravi i miei turpi errori davanti agli occhi affinché li vedessi. Li odiassi. Dopo che mi fu sufficientemente chiaro che era del tutto inesperto nelle arti in cui credevo eccellesse, cominciai a disperare che egli riuscisse a spiegarmi e sciogliermi quei nodi che mi tormentavano. È vero che avrebbe potuto benissimo ignorarli e possedere egualmente la vera pietà, ma solo se non fosse stato manicheo. I loro libri sono di fatto pieni di interminabili storielle sul cielo e le stelle. Il sole, la luna. Avrei tanto voluto che lui me le spiegasse con precisione, per fare il confronto coi calcoli che avevo letto altrove e capire se l'interpretazione fornita dai libri di mani fosse migliore o almeno altrettanto convincente, ma ormai non ci contavo più. Quando però gli sottoposi i miei problemi per analizzarli e discuterli, quello con improvvisa e vera modestia, non ne so neppure caricarsi di una tal somma. Sapeva bene di non sapere e non si vergognò di riconoscerlo. Non era proprio di quella razza di parlatori, tante volte sperimentati, che cercano di indottrinarmi senza dire nulla. Questo almeno aveva un cuore. Sia pur non retto, un cuore verso di te, ma tutt'altro che incauto verso se stesso, non del tutto ignorante della propria ignoranza, evitò di avventurarsi in una disputa che lo avrebbe costretto in una posizione da cui non avrebbe più saputo uscire né facilmente tornare indietro. Per questo, sì, per questo, mi piacque anche di più. La modestia di un'anima che si confessa è più bella della scienza che ardevo conoscere. E tale egli mi si rivelava in tutte le questioni più difficili e sottili. Così l'interesse che avevo riposto nelle dottrine manichee andò in pezzi. Non volli partire per Roma in vista dei maggiori guadagni e della maggior fama che gli amici per convincermi mi prospettavano, sebbene anche questo contasse allora a spronare il mio animo, ma il principale pressoché unico motivo fu che avevo sentito dire che lì i giovani studiano più tranquillamente, tenuti a freno da una disciplina più rigorosa. Si guardavano bene dal fare irruzione, disordinati e sfrontati nella scuola di un maestro diverso da loro, non venivano anzi nemmeno fatti entrare senza il suo permesso. A Cartagine, al contrario, la licenza degli studenti è vergognosa, incontrollata. Scorrazzano dappertutto senza ritegno e con i volti di furie scompigliano l'ordine che si è sforzati di imporre a vantaggio dei ragazzi. Commettono un'infinità di soprusi con stupefacente ottusità, che sarebbe da perseguire legalmente se non contasse sul patrocinio della consuetudine, la quale proprio in questo li rivela ancora più meschini, che compiano, cioè quasi fosse lecito, ciò che dalla tua eterna legge non sarà mai consentito e ritengano di farlo impunemente, mentre è già questa stessa cecità nell'agire a punirli e finiscano per pagare pene incomparabilmente superiori alle colpe. Così, io che da studente non avevo mai voluto avere questo genere di comportamento, da insegnante ero costretto a subirlo da parte degli altri e perciò aspiravo ad andare in un luogo in cui tutti quelli che lo conoscevano mi assicuravano che cose così non succedevano. Ma in verità eri tu, mia speranza e mia eredità nella terra dei viventi, che per spingermi a cambiare residenza per la salvezza della mia anima mi tormentavi a Cartagine, per strapparmi di là e mi adescavi con seduzioni romane, per attirarmi a opera di uomini invaghiti di una vita morta, che ora facevano follia, ora promuovevano beni illusori e tu nascostamente ti servivi per correggere i miei passi della perversità loro e mia. Quelli infatti che turbavano la mia tranquillità erano accecati di immonda rabbia, mentre quelli che mi esortavano ad altro avevano il gusto della terra e io, che qui detestavo una vera miseria, lì cercavo una falsa felicità. Per qual ragione me ne partissi da qui e andassi là, tu lo sapevi, Dio, ma non lo svelasti né a me né a mia madre, che alla mia partenza pianse davvero atrocemente, mi venne dietro fino al mare, mentre mi s'aggrappava con tutte le sue forze, o per trattenermi o per venire via con me. Io l'ingannai e finsi di non voler lasciar solo un amico che attendeva che si levasse il vento per imbarcarsi. Mentì a mia madre. E quale madre? E me ne liberai. Ma tu, anche questo misericordiosamente hai perdonato, guidandomi indenne col mio carico di ripugnanti sozzure dall'acqua del mare all'acqua della tua grazia, al cui tocco, quando ne fossi stato purificato, si sarebbero essiccati i fiumi degli occhi materni coi quali per me ogni giorno irrigava la terra sotto il suo volto. Eppure si rifiutava di tornare senza di me. Faticai a convincerla a trascorrere la notte in una cappella dedicata a San Cipriano che si trovava in prossimità della nostra nave. Poi però quella stessa notte io partii di nascosto e lei no. Rimase a piangere e a pregare. E così ti chiedeva, mio Dio, con tante lacrime, se non che mi impedissi di navigare. Ma tu, con profonda decisione, desaudendo la vera sostanza del suo desiderio, non ti curasti di ciò che allora ti chiedeva per rendermi quale sempre chiedeva. Si levò il vento e gonfiò le nostre vele e sottrasse alla nostra vista la riva su cui lei, il mattino seguente, impazzì di dolore e riempì le tue orecchie di gemiti, mentre tu, insensibile, mi trascinavi col laccio delle mie passioni per poter distruggere tali passioni. E per punire quel suo desiderio troppo carnale, col giusto scudiscio della sofferenza. Lei amava infatti avermi vicino, come fanno le madri, ma molto più intensamente della maggior parte di loro, e non sapeva quali gioie gli avresti procurato dalla mia assenza. Non lo sapeva e perciò piangeva e urlava, e quei tormenti denunciavano in lei l'eredità di Eva, cercando tra i gemiti ciò che tra i gemiti aveva partorito. E infine, dopo aver maledetto il mio inganno e la mia crudeltà, rimessasi a pregare te per me, tornò alla sua vita consueta. E io giunsi a Roma. Anche a Roma io frequentavo allora quei santi ingannati e ingannatori, non solo i loro editori, al cui novero apparteneva anche l'uomo che mi aveva ospitato in casa sua durante la malattia e la guarigione, ma persino i cosiddetti eletti, Continuavo a credere che non fossimo noi a peccare, ma non so quale altra natura peccasse in noi. E il mio orgoglio si compiaceva di essere esente da colpa. E se facevo qualcosa di male, di non essere costretto a confessare di averlo fatto affinché tu guarissi la mia anima per aver peccato contro di te. E preferivo scusare me, accusando quella certa cosa che era in me, ma non ero io. E invece lo ero interamente. E la mia impietà mi aveva diviso contro me stesso. E il peccato più insanabile era proprio quello di non credermi peccatore. Ed esecrabile ingiustizia quella di preferire che tu, Dio onnipotente, fossi vinto in me a mia rovina, piuttosto che io da te a mia salvezza. Ancora dunque non avevi posto la sentinella alla mia bocca e la porta della temperanza alle mie labbra, affinché il mio cuore non si abbandonasse alle cattive parole per inventare giustificazioni ai propri peccati compiuti in complicità con i malvagi, ed era per questo che me la intendevo ancora con i loro eletti, pur non sperando ormai più di poter progredire in quella falsa dottrina e la decisione stessa di contentarmene finché non avessi trovato qualcosa di meglio. La rispettavo ormai con briglia più sciolta, più distratta. Così, essendo giunto da Milano a Roma al prefetto dell'Urbe la richiesta di procurare a quella città un insegnante di retorica, con l'offerta aggiuntiva del viaggio pagato a spese pubbliche, mi diedi da fare, ricorrendo proprio a quei manichei infatuati di vanità. Me ne andavo per liberarmi di loro, ma entrambi lo ignoravano. Affinché il prefetto in carica, Simmaco, dopo aver assistito a un mio saggio di declamazione, mi affidasse l'incarico. Giunsi dunque a Milano dal vescovo Ambrogio, noto in tutto il mondo come uno dei migliori, tuo pio servitore, i cui discorsi dispensavano efficacemente al tuo popolo il fiore del tuo frumento, la letizia del tuo olio, la sobria ebbrezza del tuo vino. E io, senza saperlo, ero condotto da te a lui per essere condotto da lui a te. M'accolse come un padre quell'uomo di Dio e si rallegrò del mio pellegrinaggio con vero affetto vescovile, e io presi ad amarlo all'inizio non tanto come dottore della verità che disperavo di trovare nella tua chiesa, ma come persona ben disposta verso di me. E con interesse lo ascoltavo quando parlava in pubblico, non però con l'intenzione con cui avrei dovuto, ma quasi per saggiare la sua eloquenza, se fosse all'altezza della sua fama e fluisse meglio o peggio di come si diceva. Non ne perdevo una parola. E senza dare alcun peso e valore al contenuto, mi godevo la suavità dell'eloquio, sebbene fosse più dotto, ma meno divertente e accattivante di quel Fausto, almeno per quello che concerne la forma. Sui contenuti, invece, non c'era confronto. Quello si perdeva tra le fandonie manichee e questo dava salutarissimi insegnamenti di salvezza. Ma lontana dai peccatori è la salvezza. E tale ero io allora. E tuttavia, pian piano, mi avvicinavo ad essa, senza saperlo. Non mi importava affatto di imparare quello che diceva, solo ascoltare come lo diceva. Questo vacuo interesse era tutto quello che mi restava, avendo io perso ogni speranza che mi si dischiudesse la via che porta a te. Ma nel mio animo entrava, assieme alle parole che mi interessavano, anche la sostanza che ora non mi interessava. Speranza mia, sin dalla mia giovinezza, dov'eri per me? Dove t'eri nascosta? Non mi avevi forse creato e distinto dai quadrupedi e fatto più sapiente dei volatili del cielo? E io vagavo per vie oscure e scivolose e ti cercavo al di fuori di me e non trovavo il Dio del mio cuore ed ero giunto nelle profondità del mare e non avevo più alcuna fiducia e speranza di trovare la verità. Già mi aveva raggiunto mia madre, forte della sua pietà, seguendomi per terra e per mare, in te sicura tra tutti i pericoli. Nei momenti più rischiosi della tempesta, consolava quegli stessi marinai che erano soliti consolare i naviganti inesperti quando cadevano in preda alla paura, promettendo loro approdo e salvezza perché tu glieli avevi promessi in una visione. E mi trovò in pericolo grave davvero. Disperavo di trovare la verità. Quando tuttavia le dissi che non ero più manicheo, seppur nemmeno cristiano cattolico, non trasalì certo di gioia come alla notizia di qualcosa di inatteso, poiché si era già da tempo messa l'animo in pace su questo aspetto della mia miseria, per il quale mi piangeva al tuo cospetto come un morto, ma destinato ad essere resuscitato, e mi offriva sul feretro del suo pensiero affinché tu dicessi al figlio della vedova: giovane, dico a te, alzati, e questi resuscitasse e ricominciasse a parlare e tu lo consegnassi a sua madre. Il suo cuore non esultò in una esclamazione scomposta quando sentì che s'era in gran parte avverato ciò che ogni giorno piangeva al tuo cospetto affinché si avverasse. Non avevo ancora raggiunto la verità, ma ero stato già strappato all'errore. Anzi, siccome era certa che gli avresti dato anche il resto, tu che tutto avevi promesso, mi rispose tranquillamente e con animo pieno di fiducia di sapere in Cristo che prima di andarsene da questa vita mi avrebbe visto fedele cattolico. Questo a me. Ma a te, fonte di misericordie, preghiere e lacrime sempre più fitte, affinché affrettassi il tuo aiuto e illuminassi le mie tenebre, e correva in chiesa con slancio ancor maggiore, pendeva dalla bocca di Ambrogio come dalla fonte dell'acqua zampillante per la vita eterna. Amava infatti quell'uomo come un angelo di Dio, poiché aveva saputo che era da lui che ero stato per allora condotto in quello stato di fluttuante incertezza, grazie a cui era certa che sarei passato dalla malattia alla guarigione, attraverso un pericolo ancor più grave, una specie di quegli attacchi che i medici chiamano crisi. Ancora non gemevo invocando il tuo soccorso, ma il mio animo era proteso all'indagine, mai sazio di discussione, e Ambrogio stesso non era altro ai miei occhi che un uomo fortunato, secondo il giudizio del mondo, riverito come era da tanti personaggi importanti. Solo il celibato mi sembrava in lui gravoso, ma quali fossero le sue speranze, quali lotte dovesse sostenere contro le tentazioni della sua stessa grandezza e quali consolazioni provasse nell'avversità e quali gioie gustose assaporasse dal tuo pane, la sua bocca nascosta che aveva nel cuore, non ero in grado di immaginare né mai avevo sperimentato. Nemmeno lui conosceva le mie tempeste e la fossa in cui stavo per precipitare. Non potevo infatti chiedergli quello che volevo e come volevano. Mi tenevano lontano dal suo orecchio e dalla sua bocca caterve di uomini indaffarati che egli soccorreva nelle loro difficoltà. E quando non era impegnato con costoro, ma si trattava di un lasso di tempo assai breve, ristorava il corpo col necessario sostentamento o l'animo con la lettura. Quando leggeva, gli occhi scorrevano lungo la pagina e la mente ne coglieva il senso, ma voce e lingua restavano immobili. Spesso, trovandoci lì, chiunque poteva entrare e non si usava annunciargli l'arrivo di un visitatore, lo vedevamo leggere così, in silenzio, mai in un altro modo. E rimasti a sedere in lungo silenzio, chi avrebbe osato disturbare una concentrazione tanto intensa? Ce ne andavamo congetturando che lui, nel poco tempo che riusciva a dedicare a rilassare la mente, finalmente libero dal chiasso dei problemi altrui, non volesse essere distratto e forse anche qualche passo oscuro del testo che stava leggendo, o discutere qualche questione particolarmente difficile e perdere in tal modo una parte del tempo destinato alla lettura, sebbene fosse ancora più probabile che avesse adottato questo tipo di lettura silenziosa per risparmiare la voce, che gli si indeboliva con grande facilità. Per qualunque motivo lo facesse, per un uomo così non poteva essere che buono. Quel che è certo è che non era possibile interrogare a mio talento quel tuo oracolo così santo che era il suo cuore, ma solo rivolgergli qualche breve domanda. Quelle mie tempeste interiori esigevano per essergli confidate una grande disponibilità da parte sua, ma io non riuscivo ad ottenerla. Andavo comunque ogni domenica ad ascoltarlo, mentre spiegava rettamente al popolo la parola della verità, e sempre più mi convincevo che tutti quei nodi d'astute calunnie che quei nostri ingannatori intrecciavano contro le sacre scritture potevano essere sciolti, quando poi mi resi conto che l'uomo da te fatto a tua immagine non era inteso dai tuoi figli spirituali, per tua grazia rigenerati maternamente dalla Chiesa Cattolica, nel senso di pensarti delimitato dalla forma del corpo umano, sebbene non avessi ancor più la pallida e confusa idea di come fosse una sostanza spirituale, pur rallegrandomene arrossì d'aver abbaiato per tanti anni. Non contro la fede cattolica, ma contro fantasmi di immaginazioni carnali. Sì, ero stato temerario ed empio a proclamare e accusare ciò che prima avrei dovuto indagare ed imparare. Ma tu, altissimo e vicinissimo, segretissimo e presentissimo, che non hai membra più grandi e più piccole, ma che sei tutto intero, dovunque, in nessun luogo, non sei affatto questa forma corporea, eppure hai fatto l'uomo a tua immagine. Ed ecco che egli è in un certo luogo, dalla testa ai piedi. La mia fede era in questo ora più forte, ora più debole, ma che tu fossi e ti occupassi di noi l'ho sempre creduto, pur ignorando sia cosa dovessi pensare della tua sostanza, sia qual via portasse o riportasse a te. Così, non avendo noi forze bastanti a trovare la verità con la pura riflessione, ed essendoci perciò indispensabile l'autorità delle sacre scritture, avevo cominciato a credere che tu non avessi assegnato a tali scritture un'autorità tanto alta presso le tue gente, se non avessi voluto proprio per essa esser creduto o per essa cercato. Ormai, infatti, l'assurdità che solitamente mi urtava in questi testi dopo aver sentito spiegare molti passi in modo persuasivo, l'attribuivo alla profondità dei sacri simboli e la sua autorità mi appariva più venerabile e degna di una fede sacrosanta, poiché da un lato era accessibile alla lettura di tutti, dall'altro riservava la dignità del suo segreto ad intelletti più profondi, offrendosi a tutti con parole comprensibilissime, con lo stile più umile, ma insieme stimolando la riflessione di coloro che non sono leggeri di cuore, al fine di cogliere tutti nel suo grembo popolare e lasciar passare fino a te, attraverso strette fessure, alcuni, pochi, ma pur sempre non così pochi quanto sarebbero stati se non avesse goduto di un'autorità tanto eccelsa e non avesse attratto la turbe nel grembo di una santa umiltà. Così riflettevo e tu eri con me, sospiravo e tu mi sentivi, ondeggiavo e tu mi pilotavi, ma ne andavo per la via larga di questo mondo. E tu non mi abbandonavi. Aspiravo avidamente a onori, guadagni, matrimonio, e tu ridevi di me. In quelle passioni incontravo difficoltà amarissime, perché tanto più mi favorivi, quanto meno consentivi che mi sembrasse dolce ciò che tu non eri. Guarda il mio cuore, Signore, tu che hai voluto che io ricordassi tutto questo e te lo confessassi. Ora a te avidamente aspira l'anima mia, che hai liberato dal vischio tenacissimo della morte. Oh, quant'era misera! E tu tormentavi la ferita aperta affinché, abbandonata ogni cosa, si rivolgesse a te, che sei sopra ogni cosa e senza cui nessuna cosa sarebbe. Si rivolgesse e guarisse. Quanto ero misero io stesso. E come tu hai fatto sì che io sentissi tutta la mia miseria nel giorno in cui, apprestandomi a recitare il panegirico all'imperatore, pieno zeppo di menzogne che avrebbero guadagnato al loro autore il plauso di un pubblico in grado di apprezzarle, col cuore che palpitava d'angoscia, preoccupazione ed era in preda alle febbri di pensieri distruttivi, mentre passavo per un certo vicolo milanese, mi imbattei in un povero mendico già saturo e confidai agli amici che mi accompagnavano le molte pene causate dalle nostre follie. Con tutti i nostri sforzi, sul tipo di quello in cui ero allora impegnato, portando sotto il pungolo dell'avidità il fardello della mia infelicità, e a forza di portarlo accrescendone il peso. Sforzi che non vogliono nient'altro se non giungere alla perfetta felicità, dove appunto quel mendicante ci aveva preceduto e dove noi forse non saremo mai giunti. Ciò che quello aveva ottenuto con poche monetine elemosinate, io lo stavo ricercando per anfratti e meandri tanto rischiosi e faticosi, vale a dire l'appagamento di una felicità terrena. La sua, infatti, non era vera gioia, ma io con quelle mie ambizioni ne cercavo una ancora più falsa. E certamente quello era tutto contento, mentre io ero ansioso, lui tranquillo, io trepidante. E se qualcuno mi avesse chiesto se preferivo esultare o aver paura, avrei risposto: esultare! Ma se poi mi avesse chiesto se preferivo essere com'era l'altro o com'ero io stesso in quel momento, avrei scelto me stesso, pur ridotto in quello stato d'affanni e paure. Ma sarebbe stato un errore. Oh, invece, avrei avuto ragione. Non dovevo affatto credermi superiore all'altro, perché ero più istruito, dal momento che questo non era per me fonte di gioia, ma me ne servivo semmai per cercare di piacere alla gente, non per insegnare qualcosa, ma solo per piacere. Ecco perché, con la verga della tua scuola, mi spezzavi le ossa. E io grandemente mi stupivo, valutando e riflettendo di quanto tempo fosse passato dal 19° anno di mia vita, quando avevo cominciato ad appassionarmi alla ricerca della sapienza, deciso, se la trovavo, ad abbandonare ogni vana speranza di vane passioni e ogni folle menzogna. Ed ecco che già avevo 30 anni. E continuavo a dibattermi in quel medesimo fango per il desiderio di fruire delle cose presenti, sfuggenti e distruttive, e dicevo: domani, domani troverò. Ecco, ma apparirà in piena evidenza, io la terrò ben stretta. Ecco, verrà Fausto e mi spiegherà tutto. Oh, accademici, grandi uomini, nullo di certo si può trovare che serva a vivere. Ma no, cerchiamo diligentemente e non disperiamo. Ma ecco che certe cose che nei libri della Chiesa mi parevano assurde, assurde non sono, e possono essere interpretate correttamente in modo diverso. Poserò il piede su quel gradino sul quale da piccolo ero stato messo dai miei genitori finché non avrò trovato la precisa verità. Ma dove devo cercarla? E quando? Ambrogio non ha tempo, e neppure noi abbiamo tempo per leggere. E i libri stessi, dove cercarli? Da chi? E quando procurarceli? A chi chiederli? Andranno forse stabiliti tempi e assegnate determinate ore per la salvezza dell'anima? È nata una grande speranza. La religione cattolica non insegna ciò che credevamo e vanamente accusavamo. I suoi dotti reputano delitto credere che Dio sia rinchiuso nella figura del corpo umano. Cosa aspettiamo a bussare? Perché anche le altre porte ci vengono aperte? Le ore antimeridiane sono dedicate agli allievi. Delle restanti cosa dobbiamo fare? Perché non dedicarle a questo? Ma allora, quando andremo a far visita agli amici influenti del cui appoggio abbiamo bisogno? Quando prepareremo i testi da vendere agli allievi? Quando recupereremo un po' le forze riposando la mente dalla tensione delle preoccupazioni? Ah, che tutto vada in malora! Lasciamo perdere tutti questi problemi vani e inani. Dedichiamoci alla sola ricerca della verità. La vita è misera, la morte incerta. Ti striscia addosso all'improvviso. Come? Uscirne. E dove possiamo imparare ciò che sin qui abbiamo trascurato? O non dovremmo piuttosto pagare il filo di tale trascuratezza? E se invece la morte troncasse e terminasse assieme alla sensibilità anche ogni affanno? Anche su questo bisognerebbe investigare. Ma lungi da me il pensiero che le cose stiano così. Non può essere privo di peso e consistenza il fatto che l'altissimo vertice della fede cristiana si propaghi con tanta autorità in tutto il mondo. Tante e tali cose non sarebbero compiute per noi dalla divinità se con la morte del corpo si esaurisse anche la vita dell'anima. Perché dunque esitiamo ad abbandonare la speranza mondana e a gettarci tutti alla ricerca di Dio e della vita beata? Ma aspetta, anche le cose di questo mondo sono piacevoli, hanno una loro non piccola dolcezza. Non si può troncare tanto facilmente lo slancio, distaccandosi da esse sarebbe poi una vergogna tornare da loro indietro, ma ecco quanto basta per ottenere un incarico onorifico. Che cosa si potrebbe desiderare di più? Abbiamo un certo numero di amici influenti. Se non vogliamo impegnarci molto per ottenere altro, almeno una presidenza si può avere. E bisognerà prendere una moglie con un certo patrimonio perché non gravi sul nostro bilancio, e questo sarà tutto quel che possiamo desiderare. Molti grandi uomini e degnissimi di imitazione si sono dedicati allo studio della sapienza pur avendo una moglie. Mentre dicevo così, ed era un continuo mutar di vento che mi sballottava il cuore da una parte all'altra, il tempo passava e io tardavo a volgermi al Signore e rinviavo di giorno in giorno di vivere in te, eppure non rinviavo di morire ogni giorno in me stesso. Amavo la vita beata, ma avevo paura di lei. Nella sua dimora la cercavo fuggendola. Credevo infatti che sarei stato troppo infelice se fossi stato privato degli amplessi di una donna. E non ricorrevo alla medicina della tua misericordia per guarire tale infermità, perché non l'avevo mai sperimentata e credevo che la continenza si dovesse ottenere con le proprie forze. Io, in me, di forze, io in me non ne sentivo, essendo tanto sciocco da non sapere, come è scritto che nessuno può essere continente se tu non glielo concedi. Me l'avresti sicuramente concesso se col mio gemito interiore avessi bussato alle tue orecchie e con solita fede avessi proiettato in te ogni mio pensiero. E mi stavano addosso senza tregua per farmi prender moglie. Già avevo fatta richiesta, già era stata accolta, specialmente per l'impegno con cui mia madre cercava di far sì che, una volta sposato, io venissi mondato dal battesimo di salvezza, al quale vedeva con gioia che mi avvicinava ogni giorno di più e avvertiva che nella mia fede si adempivano i suoi voti e le tue promesse. Nonostante ogni giorno su mia richiesta e per suo desiderio ti supplicasse con un grido appassionato del cuore di mostrarle in visione qualcosa del mio imminente matrimonio, tu non l'hai mai esaudita. Aveva sì delle visioni inconsistenti, fantastiche, provocate dall'attenzione di uno spirito umano tutto preso da queste cose, e me le riferiva, ma non con quella sicurezza con cui era solito farlo quando le mandavi una visione, bensì con tono di sufficienza. Sosteneva infatti di saper distinguere, in base a non so qual sapore che non era in grado di spiegare a parole, la differenza tra una visione mandata da te e una sognata dalla sua anima. Comunque insistevano e la fanciulla fu richiesta. Le mancavano almeno 2 anni per giungere all'età del marito, da marito, ma piaceva e si era disposti ad aspettare. Intanto i miei peccati si moltiplicavano, e quando mi fu strappata in quanto ostacolo al matrimonio la donna con cui dividevo il letto, il mio cuore, che l'era profondamente attaccato, ne fu lacerato e ferito. E mio Signore sanguinava. E quella era tornata in Africa, facendoti il voto di non conoscere più altro uomo dopo avermi lasciato il figlio naturale che mi aveva dato. Ma io, sciagurato, incapace di imitare una femmina, impaziente di dover attendere ancora, siccome ci sarebbero voluti altri 2 anni per avere colei che avevo chiesto in sposa, e poiché non ero amante del matrimonio, ma schiavo della libidine, me ne procurai un'altra, non certo come moglie, ma per alimentare e continuare, o intatto o addirittura aggravato, quel morbo della mia anima, con la scorta di una ininterrotta consuetudine, fino al regno della mia moglie legittima. Ma quella mia ferita non si sanava. Quella, provocatami dall'amputazione della precedente, ma dopo febbre e dolore acutissimo, incancreniva e mi causava un dolore, per così dire, più freddo, ma ancor più disperato. Lode a te. Gloria a te, fonte delle misericordie. Accetta il sacrificio delle mie confessioni dalla mano della mia lingua, che tu hai creato e incitato a confessare il tuo nome, e guarisci tutte le mie ossa. E dicano: Signore, chi è simile a te? Colui che si confessa a te non ti svela nulla di ciò che avviene in lui, poiché il tuo occhio non è fermato da un cuore chiuso, né la tua mano respinta dalla durezza degli uomini, ma tu la sciogli a tuo piacimento. O misericordioso, o vindice, e nessuno può sottrarsi alla tua fiamma. Ma ti lodi l'anima mia per amarti, e confessi le tue misericordie per lodarti. L'intera tua creazione non interrompe né tace le tue lodi, come pure ogni spirito con la bocca a te rivolta, come ogni animale o corpo inanimato attraverso la bocca di chi li contempla, affinché risorga in te dalla sua spossatezza l'anima nostra, e appoggiandosi alle tue creature giunga sino a te, che mirabilmente le hai create. Solo lì ristoro e vera forza. Vadano, fuggano via da te senza pace i malvagi. Tu li vedi e ne distingui le ombre, ed ecco che il tutto resta bello anche con loro, mentre loro sono brutti. E come potevano nuocerti o intaccare la dignità del tuo impero, giusto e integro dal cielo fino agli ultimi confini del creato? Dove, infatti, avrebbero potuto fuggire, fuggendo dal tuo cospetto, o dove tu non sapresti ritrovarli? Eppure sono sfuggiti, per non vedere te che li vedevi, e incapaci di vedere, finirti addosso, già che tu non abbandoni nessuna delle tue creature, finirti addosso ingiusti e giustamente essere puniti, volendo sottrarsi alla tua mitezza, ma inciampando nel tuo rigore e rovinando sulla tua durezza. Non sanno, è chiaro, che tu sei dappertutto, che nessun luogo ti circoscrive, che solo sei presente anche a coloro che ti fuggono lontano. Si volgano dunque e ti cerchino, giacché, al contrario di loro che hanno abbandonato il loro creatore, tu non hai abbandonato le tue creature. Siano loro a tornare a cercarti, ed ecco, tu sei nel loro cuore, nel cuore di chi a te si confessa, in te si getta e sul tuo petto piange dopo il suo difficile cammino, e tu, disponibile, asciughi le loro lacrime, ed essi piangono ancor di più e gioiscono piangendo, poiché tu, Signore, non un uomo qualsiasi, carne, sangue, ma tu, Signore, che li hai creati, li ricrei e li consoli. Ma io dov'ero quando ti cercavo? Ma tu eri davanti a me, mentre io da me ero partito e non riuscivo a ritrovarmi, ancor meno a ritrovare te.